in primo piano. Buongiorno, buona ultima domenica di agosto da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa domenicale, appunto, che abbiamo deciso in agosto di dedicare ai settimanali. E quindi cominciamo, come del resto facciamo anche durante le altre domeniche dell'anno, dalla domenica del Sole 24 Ore, e anche in questo caso non perdiamo mai la buona abitudine di iniziare dal breviario di Gianfranco Ravasi, che trovate sulla copertina del domenicale e che oggi si intitola Paese, e la citazione è da un romanzo di Cesare Pavese. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Scrive Ravasi: anch'io, come l'autobiografico narratore della Luna e i Falò di Cesare Pavese, provengo da un paese. Oppure io e i vecchi compagni simili al Nuto del romanzo o al ragazzo Cinto che sono rimasti per tutta la vita in quello spazio ristretto ma carico di simboli. Ricordo, prima che passasse l'onda edilizia e la frenesia attuale, il profumo del pane del fornaio, il suono delle campane all'alba o la sera, i volti semplici dei contadini segnati dal sole, le vigne, i solchi, le feste patronali. Le porte si affacciavano sui cortili dove i bambini giocavano e le madri chiacchieravano. Persino le mormorazioni erano indizio di interesse reciproco più che di cattiveria. Non è per nostalgia che rievoco con Pavese quel piccolo mondo antico e remoto, ma è per ribadire la necessità di un luogo ove non si è soli come nei deserti metropolitani e ove la norma è la semplicità e non l'eccesso. Ammoniva Pasolini nei suoi scritti corsari: gli uomini del mondo contadino non vivevano un'età dell'oro, ma l'età del pane. I beni superflui rendono superflua la vita. Come sempre Ravasi, insomma, ci fa riflettere. Il pezzo di copertina vero e proprio però si lega innanzitutto al fatto che dal 3 al 9 settembre si terrà a Mantova il Festival della Letteratura. E al Festival della Letteratura, il 9 di settembre per la precisione, parteciperà l'autore spagnolo Fernando Aramburu, che è l'autore di questo libro che si chiama Patria, 640 pagine di libro appena pubblicato da Guanda, di cui il Sole 24 Ore pubblica parte della prefazione di Mario Vargas Llosa, che è il premio Nobel per la letteratura 2010. Il romanzo parla, prende uno spunto di cronaca, come a volte succede con i grandi romanzi, che è la storia dell'ETA, l'organizzazione terroristica spagnola, ma naturalmente è un modo per ripercorrere i cambiamenti della storia spagnola del dopoguerra. E da qui il titolo Spagna, cosa resta dopo il fanatismo. Molto interessante, un libro di cui si sta parlando tantissimo, lo vedremo dopo, lo ha recensito anche Venerdì di Repubblica, per esempio, anzi addirittura praticamente dedicato la copertina, quindi sicuramente interessante. Poi alcuni aggiornamenti sul Festival di Venezia, anche questo imminente, sta per iniziare, e Cristina Battocletti ci racconta Ion Juliet, il film di Kim Nguyen che racconta una storia d'amore nata attraverso l'occhio di un robot che vigila un oleodotto, e il titolo Shakespeare sul drone. In tema di arte contemporanea, sempre interessante perché è così difficile da definire ma anche spesso così piazzante e difficile da capire, Gabi Scardi, Superfici non superficiali. La vita è scandita da piani, pelle, stoffe, video, pellicole e muri, attorno ad essi gli artisti stanno lavorando. È un po' il tema del titolo di questo libro sull'arte contemporanea di Giuliana Bruno, appena uscito per Joan e Levi. Veniamo alla lettura, in edicola oggi col Corriere della Sera, che tra l'altro proprio oggi compie 300 numeri. La lettura è un supplemento culturale relativamente giovane rispetto per esempio appunto al domenicale, però settimana dopo settimana siamo già arrivati al numero 300. Come sempre la copertina è affidata a un artista e questa settimana è Douglas Copland, e dall'interno, perché è un po' un numero che appunto volendo celebrare questi primi 300 numeri di vita è un po' speciale e commemorativo, c'è per esempio un'opera fatta apposta per la lettura, o meglio concessa in pubblicazione apposta alla lettura, da Art Spiegelman, forse il più grande autore di fumetti. Io preferisco ancora la parola fumetti alla parola graphic novel, ma in ogni caso di quello si tratta, anche di fumetti ma anche di romanzi illustrati, il più importante autore appunto americano, lo ricordiamo, ha vinto il premio Pulitzer, che è il più più prestigioso premio giornalistico e letterario americano nel 92 ed è stato il primo a vincerlo per appunto un fumetto che era Maus, che raccontava la storia dell'Olocausto attraverso gli occhi del padre che gli aveva fatto alcuni racconti, e poi lui, che era un autore di fumetti, ha fatto questa scelta che nessuno aveva mai fatto prima, appunto di usare i fumetti per raccontare la Shoah, l'Olocausto. Molto interessante l'intervista di Cristina Taglietti a Shelley Kagan, che è uno storico della filosofia, insegna filosofia alla Yale University, ma ha insegnato in tantissime altre università, e il tema che tutti i filosofi devono affrontare, e magari riescono a darsi qualche risposta in più rispetto a noi: una macchina che si rompe. Ecco che cos'è l'uomo e che cos'è la morte. Questo filosofo, titola la lettura del Corriere, ha stregato Yale e poi la rete. Sostanzialmente, semplificando molto, lui dice: Platone ha sbagliato, pensiamo alla vita. Vi leggo una delle domande di Cristina Taglietti. La morte è uno dei grandi temi della filosofia. E lei cosa ne pensa? Infatti, in un corso introduttivo dal punto di vista didattico, il tema mi permette di avviare gli studenti verso diverse aree della filosofia, invece di usare un assortimento casuale di temi diversi ogni settimana, ne uso uno solo. Ma il successo è merito dell'argomento che interessa a tutti o di come lei li insegna, la morte per l'appunto? Il mio modo di insegnare è abbastanza informale. Molti dicono che questo rende le lezioni accattivanti. Sto per la maggior parte del tempo seduto sulla scrivania e quando arrivo a un passaggio particolarmente interessante salto giù dal tavolo e inizio a muovermi. Non leggo le lezioni, non guardo nemmeno gli appunti. In America sono tutt'altro che un caso isolato, anche se mi colloco nel punto più estremo del lato informale dello spettro dell'insegnamento. Ho un tono accorato, cerco di essere coinvolgente ma allo stesso tempo chiaro. Cosa che non è sempre facile, considerato che alcune questioni dal punto di vista filosofico sono particolarmente complicate. Il mio obiettivo non è insegnare che cosa ha detto questo o quel filosofo, ma insegnare a pensare ad alcune delle questioni più importanti nel modo migliore, permettere agli studenti di decidere da soli che cosa vogliono pensare, una cosa che molti non hanno mai avuto la possibilità di fare. Servirebbe davvero una scuola così, dei professori così. Ci lasciamo un attimo per la pausa sul traffico. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta In primo piano. Ancora buona domenica da Giulia Crivelli. Un'ultima segnalazione dalla lettura del Corriere della Sera, due pagine dedicate a Jasper Jones, che è uno dei grandi pittori contemporanei americani, ha 87 anni oggi. Per darvi un'idea, uno dei suoi quadri più famosi è quello semplicissimo, se vogliamo, della bandiera americana. E non soltanto sono in uscita 5 volumi, ci spiega Vincenzo Trione, sull'opera di questo grande pittore, ci sarà anche una mostra antologica a Londra. Questo è un pittore di quelli che parlano pochissimo, tanto che Vincenzo Trione appunto spiega il lungo silenzio. Però la lettura pubblica anche 3 scritti sul tema la poetica, il catalogo e l'esposizione appunto di Jasper Jones. In realtà avevo detto l'ultimissima segnalazione, ancora una, visto che forse è trapelato la mia passione anche per i fumetti e la graphic novel. A pagina 34 e 35 un lungo articolo di Mauro Kovacic, che evidentemente, oltre ad essere un bravissimo scrittore, è a sua volta un appassionato di fumetti e di illustrazione, che racconta Il filosofo dell'occhio vede lontano. Franco Matticchio è un maestro di tratteggio e ombreggiature, cartoonist e fumettista. Tra l'altro una sua grande mostra ci sarà tra poco anche a Parigi, ma il signor Ai, protagonista delle storie che costituiscono la parte importante del nuovo libro, sollecita riflessioni che chiamano in causa niente po' di meno che lo psicanalista Jacques Lacan, i registi Louis Buñuel, David Lynch e l'artista Giuseppe Penone, di cui tra l'altro c'è stata appena una bellissima mostra, talmente di successo che è stata prolungata, ospitata al Colosseo Quadrato, il cosiddetto Colosseo Quadrato all'Eur, che è la sede della Maison Fendi, ma è anche appunto uno spazio espositivo. Vediamo gli altri settimanali che sono usciti questa settimana. Da Didi Repubblica ha una copertina molto suggestiva, perché è una foto scattata nemmeno col grandangolo, è proprio, e però dà l'idea di quanto profonda sia la scala, sia dalla parte del boccascena, sia dalla parte della platea. Accademia Teatro alla Scala, la febbre dell'arte. E un lungo articolo all'interno ci racconta tutti i mestieri che vengono insegnati all'interno della Scala, quindi dai laboratori di scenografia, naturalmente poi alle scuole di balletto e a tutto quello che fa di un teatro d'opera e appunto il balletto come la Scala, è forse uno dei più famosi, se non addirittura il più famoso al mondo. Poi un divertente pezzo che si intitola Non chiamatemi Nutella di Rosellina Salemi, che fa un po' un excursus semiserio, ma serio, che fa ridere, diciamo così, su come a volte vengano anche in Italia, anche in Europa, abbia preso un po' piede quest'idea di dare dei nomi molto bizzarri. Scegliere il nome dei figli non è facile, c'entra il timore di essere banali, la voglia di appartenenza, l'ultimo trend. Oggi è mostrarsi originali a tutti i costi e rifarsi alla tecnologia. Però ci sono anche delle curiosità, per esempio ci sono proprio dei divieti, perché va bene dare il nome che si vuole, però per esempio da questo schema che trovate su Didi Repubblica sono vietati in Italia i nomi ridicoli o vergognosi, e quelli stranieri devono essere espressi usando le lettere dell'alfabeto italiano. In Germania per esempio esiste un intero reparto che si chiama Standesamt, che si occupa solo dei divieti anagrafici. Sono stati respinti proposte di nomi come Woodstock, Grammophon, Lafayette e Jazz. E poi c'era qualcuno che voleva chiamare il figlio WikiLeaks, ma non gli hanno dato il permesso. Una lunga intervista anche di Antonio Monda, che è stato per molti anni direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a New York e ora è anche direttore della Festa del Cinema di Roma, a George Saunders, che è uno scrittore americano, saggista in realtà, saggista e regista, che adesso ha scritto il suo primo romanzo e scrive Antonio Monda, tra storia, epica, solitudine, quotidiano, eroismo. E al centro chi c'è Abraham Lincoln, forse il presidente più simbolico di tutta la storia americana, ancora più di Washington, che ha dato, di George Washington, che ha dato il suo nome anche alla capitale. Io Donna invece ha in copertina Javier Bardem, perché l'attore spagnolo è in partenza per Venezia, dove è presente con un film, tra l'altro interpretato insieme alla moglie Penelope Cruz. Sportweek, il settimanale della Gazzetta dello Sport, invece ha in copertina tre dei giocatori della nostra nazionale di pallacanestro e il titolo del servizio è L'ultima chiamata. Doveva essere l'Italia più forte di sempre, ma non ha vinto niente. Ora all'Europeo un gruppo di reduci cerca la rivincita, anche per chi non c'è. E trovate questo lungo articolo di Fabrizio Salvio dalla pagina 25 di Sportweek in poi. Poi vi segnalo la prima pagina del Wall Street Journal dell'edizione Weekend dell'Europa, che copre quindi tre giorni, perché a volte forse pensiamo che non abbia molto senso, come ricordo sempre trovo molto giusto il promo della trasmissione Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci, che dice bisogna capire che il mondo non ha più confini. Il Wall Street Journal ha messo in prima pagina, nell'edizione di questo weekend, una foto scattata in Yemen, perché quello che sta succedendo in Yemen è comunque importante sullo scacchiere geopolitico, ma noi sostanzialmente non ce ne curiamo troppo. Ecco, il Wall Street Journal a questo dedica nella settimana, come sapete, in cui sono successe tantissimi fatti economici, in cui il presidente Trump ha addirittura minacciato il famoso shutdown, cioè di non approvare il bilancio e quindi di bloccare completamente qualsiasi attività finanziata dallo Stato, perché viene appunto bloccato il bilancio, e che il cosiddetto lock up. E in questa settimana, dove comunque quindi non mancavano le notizie economiche, per non parlare di tutte le battaglie per ora solo verbali che proseguono con la Corea del Nord e con la Russia, il Wall Street Journal mette questa foto dello Yemen e spiega che cosa sta facendo, che cosa sta succedendo in Yemen. Da questo stesso numero settimanale del Wall Street Journal una lunghissima recensione, una biografia appena uscita in America del nostro grande direttore d'orchestra Arturo Toscanini, si chiama Musician of Conscience, quindi un musicista della coscienza, l'ha scritto Harvey Sachs, e appunto una pagina intera di di recensione corredata da una foto di Toscanini con la bacchetta in mano del 1943. Sempre dal Wall Street Journal vi segnalo un tema di cui abbiamo parlato anche in Italia, quello degli integratori, per dire che insomma è giusto nel weekend anche parlare di queste cose, anche su un quotidiano che, ripeto, ha un'edizione settimanale che copre 3 giorni, come il Wall Street Journal. È un'illustrazione stupenda, è un fotomontaggio tra una foto e un disegno. Da questo bicchiere, e questa è la parte fotografica, spunta un disegno che sembra qualcosa, non so, ricorda un fumetto di quelli pieni pieni pieni come quelli di Iacovitti, spunta di tutto, perché anche in America, anzi probabilmente è iniziata lì e ora la stiamo portando qui, c'è questa moda degli integratori o dei drink o delle centrifughe, dove veramente almeno sulla carta, sul menù, c'è di tutto e dovrebbero aiutarci a integrare tutto quello che non riusciamo ad assumere per altri alimenti o altre bevande. Vi dicevo, la copertina del venerdì, come la copertina del domenicale di oggi, è dedicata, prende spunto da questo libro appena uscito, questo lungo romanzo, e il tema però si allarga poi a tutto quello che sta succedendo in Spagna. Mentre i jihadisti tornano a colpire proprio nel cuore della Catalogna, che si sogna indipendente, un romanzo scuote il paese. Parla di un altro terrorismo e di un altro separatismo, quello basco dell'ETA, racconto di un incubo durato mezzo secolo. All'interno del venerdì vi volevo segnalare, appunto, a parte questo lungo articolo che prende spunto dal libro che è appena uscito in Italia e che, come vi dicevo, verrà presentato al Festival della Lettura di Mantova, della Letteratura di Mantova. Si chiama l'articolo "Che romanzo, la fine dell'ETA", e lo trovate a partire da pagina 17 del venerdì. Poi forse ne avevamo parlato durante qualche rassegna stampa, o forse perché Gianluca Vacchi ci aveva spiegato che ogni mattina si iberna non so per quanti minuti. Qui invece, e poi settimana scorsa invece avevamo parlato del letargo e l'avevamo visto su Focus, Giulia Villoresi a pagina 56 del venerdì, l'uomo che forse riuscirà a mandarci in letargo. Matteo Cerri studia il meccanismo che raffredda il corpo degli animali. Ancora non sappiamo bene come funzioni, né se potrebbe funzionare su di noi, ma ci stiamo arrivando. Internazionale, in edicola da venerdì, invece ha una copertina dedicata, illustrata da Zero Calcare, che è un giovane autore di graphic novel italiano, è tutta dedicata all'inchiesta del New York Times sulla fine di Giulio Regeni. Tutte le ombre dell'omicidio di Giulio Regeni, i depistaggi del governo egiziano, le informazioni dell'intelligence statunitense, gli interessi economici italiani in Egitto. Dall'interno, come sempre, tantissimi articoli interessanti. Mi ha colpito in particolare un lancio di James McKenzie fatto per la Reuters. La Reuters, la parte britannica dell'agenzia di stampa, che si è concentrato sui minerali afghani che fanno gola a Washington. Abbiamo sentito di nuovo, per legarci alla cronaca, che questa settimana Trump ha ribadito, concesso ha consentito alle richieste dei suoi generali, che chiedevano un maggiore impegno americano di soldati americani in Afghanistan. Che cosa scopriamo però? Che c'è qualcos'altro che fa gola agli americani in Afghanistan, cioè le risorse minerarie del paese, che potrebbero ripagare le spese degli Stati Uniti per questo intervento. E questo articolo è a pagina 26 di Internazionale. Un'altra segnalazione che mi ero segnata, perché settimana prossima, mi sembra il giovedì che è il 31 di agosto, saranno 20 anni esatti dalla morte della principessa Diana Spencer, e sicuramente tutti ricordano, almeno chi ha più di, diciamo, 30 anni, forse no, facciamo chi ne ha più di 35, che quindi ne aveva 15 all'epoca, in quel giorno e nei giorni successivi questo evento, perché poi morì giovane in un incidente d'auto, fece veramente parlare tutti, e secondo poi ricostruzioni successive fece anche tremare un po' la monarchia. David Randall, che oltretutto sarà al Festival di Internazionale, perché lui è senior editor dell'Independent di Londra, Sarà al Festival Internazionale dal 29 al 30 settembre e poi sarà anche probabilmente al Festival di Mantova. Ecco, lui cerca, da inglese, di spiegarci che cosa successe 20 anni fa. La principessa Diana e il sessismo dei giornali. L'unico personaggio a cui Diana è paragonabile è l'attrice Marilyn Monroe, che a 55 anni dalla morte è ancora capace di ispirare libri, rivelazioni e articoli di giornale come Lady Di. Era l'ultima segnalazione, purtroppo avevo segnato tante altre cose, ma sapete cercarle, trovarle da soli sui settimanali di questa settimana e naturalmente su internet. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.